2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 25 ottobre 2008, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale è 2024-2024, scritto in cifra, e radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile online sul nostro sito internet www.radio24.it nelle pagine di 2024 e come sempre vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. Se volete informazioni scriveteci una email oppure andate online sul nostro sito per scaricare gratuitamente ogni settimana la nostra puntata, quindi poi riascoltarla sul lettore di file MP3 oppure sul vostro computer o dove altro preferite. C'è anche chi recentemente ha ricevuto un paio di email di questo tono sulla chiavetta USB, scarica la trasmissione e poi se la porta in automobile. Oramai ci sono molte automobili che hanno l'ingresso per una chiavetta USB, uno degli strumenti che si è diffuso di più negli ultimi anni. La scorsa settimana abbiamo parlato del digitale terrestre, quindi di TV. Sapete che la Sardegna entro pochi giorni, entro la fine del mese, sarà la prima regione all digital italiana, quindi verranno completamente spente le frequenze analogiche della vecchia TV, cosa che è già successa nella parte sud della regione. E dicevo, entro la fine del mese tutta la regione passerà completamente alla tecnologia digitale. Abbiamo parlato anche del programma, ricordando che altre regioni seguiranno nel corso del 2009, poi tutto il processo dovrebbe concludersi entro il 2012. Questa settimana invece parliamo di radio. Ci sono molti ascoltatori che ci chiedono informazioni ogni tanto sull'evoluzione della tecnologia DAB. Il DAB sta per Digital Audio Broadcasting, ovvero la radio digitale. Siamo sicuramente in ritardo rispetto ad altri paesi, si parla di questa tecnologia con varie sperimentazioni un po' in tutta Europa dall'inizio degli anni 90 dello scorso secolo. Beh, a che punto siamo? Ci potrebbero essere novità imminenti. Per parlarne oggi è con noi Sergio Natucci, che è segretario generale della RNA, Radio Nazionali Associati, una delle associazioni di radio nazionali più importanti in Italia, alla quale aderisce anche Radio 24. Natucci, benvenuto a 2024. Grazie, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. Siamo a buon punto, ci sono delle novità interessanti, soprattutto collegate alla tabella di switch off della televisione. Il problema dello sviluppo della radio digitale in Italia era legato soprattutto alla carenza di frequenze. Ricordo ai nostri ascoltatori che questo tipo di trasmissioni non avvengono in FM, quella banda di frequenza, ma in altre, esattamente la banda terza, il VHF3, dove nel nostro paese vi sono diffusioni televisive analogiche. Con la tabella di switch off si liberano delle risorse e quindi questo farà decollare definitivamente, dare l'avvio alle trasmissioni ordinarie e non più sperimentali in tecnica digitale. Quindi la Sardegna sarà il nostro battesimo, come è stato per la televisione. L'autorità sta predisponendo l'aggiornamento del regolamento in modo da poter poi dar corso a queste diffusioni con il rilascio delle autorizzazioni per gli operatori di rete. Ricordiamo agli ascoltatori che nel caso della radio non ci sarà uno spegnimento delle frequenze analogiche, quindi continueremo per alcuni anni, o forse per molti anni, ad avere sia la radio tradizionale in FM sia la radio digitale, con probabilmente più canali, quindi più programmi. Sì, la radio raddoppia con il digitale, raddoppia in senso materiale, perché ci sarà il doppio delle diffusioni, gli stessi programmi in analogico e in digitale. Non è previsto alcuno switch off né in Italia né in nessun altro paese europeo, neppure si è avviato un dibattito su questo, proprio perché la radio ha una diffusione capillare, è un mezzo alla portata di tutti e anche a un prezzo bassissimo ricevitore. Sarebbe molto complicato avviare uno switch off, quindi la radio raddoppia in termini, come dicevo, di diffusione, di sistemi di diffusione, ma raddoppia anche come servizi, perché con il digitale non ci sarà solo l'audio, ci sarà anche la possibilità di ricevere immagini lente o a una certa velocità, soprattutto per servizi di informazione stradale, non solo, anche sulle attività locali, degli enti locali. Poi avrà dati sia associati ai programmi che ciascuno ascolterà, i propri programmi preferiti, sia dati di servizio legati alla comunità in cui uno vive. Senti, possiamo così dare un'idea agli ascoltatori dei tempi? Si partirà dal 2009? Noi siamo ottimisti, pensiamo come gruppo, come Club Dub Italia, il consorzio a cui aderisce anche Radio 24, abbiamo sempre fatto una politica molto realista, abbiamo dichiarato più volte e ci siamo anche impegnati in questo a fare gli investimenti necessari solo quando ci sarebbero state le autorizzazioni definitive. Noi riteniamo che ragionevolmente entro la metà del 2009 vi siano queste autorizzazioni, immediatamente dopo, appunto, come dicevo, il banco di prova sarà la Sardegna, sarà la prima regione, poi seguiremo lo switch off televisivo che è molto importante. Oggi si fa il pronostico di avere entro il 2009 la televisione digitale nel sud del Lazio, compresa la capitale, la Campania, una parte importante del Piemonte e anche il Trentino. Questo significherebbe che nel 2010 in quelle stesse zone si potrebbero avere le prime definitive diffusioni digitali. Tra l'altro la nostra attività di sviluppo sul digitale è coordinata insieme a quella della concessione alla pubblica, la RAI, e insieme all'associazione più importante delle emittenti locali, che è la Eranti Corallo. Un'ultima domanda riguarda, e così rispondiamo anche ad alcuni ascoltatori che ci scrivono spesso su questa scuola, perché ad alcuni piace, vorrebbero avere la radio digitale. Oggi sappiamo che in buona parte del territorio italiano ci sono delle trasmissioni sperimentali. Se uno compra una radio DAB oggi, può ascoltare? Che cosa può ascoltare? Soprattutto, tu consigli di acquistarla oppure meglio aspettare? Allora, sono contento che vi siano molti ascoltatori incuriositi e anche interessati. L'audio del digitale radiofonico è perfetto, è stupendo, non ha interferenze, quindi anche in auto la ricezione è assolutamente straordinaria. Io consiglierei di aspettare qualche mese, perché tutto questo sviluppo avverrà con un'innovazione della tecnologia DAB che si è trasformata in questi anni in DMB, che è lo standard che permette la diffusione anche di immagini, e in un altro standard che si chiama DAB Plus, della stessa famiglia ma una codifica audio diversa, è l'MPEG 4, quindi gli attuali ricevitori in gran parte commercializzati in Europa, e ce ne sono tantissimi, gran parte di questi non ricevono il DAB Plus, che si sta sviluppando in Francia e in Germania, ma diciamo non tutti i ricevitori hanno questa caratteristica. Quindi se qualcuno decide di acquistarne uno, deve assicurarsi che riceva il DAB Plus. Meglio probabilmente aspettare qualche settimana, l'inizio, la primavera 2009, forse avremo anche con l'autorità garante la predisposizione di un documento di requisiti minimi, proprio perché il consumatore sia tutelato anche da questo punto di vista. Bene, quindi Natucci tornerà presto, tra qualche mese, a parlarci, speriamo, insomma, dell'avvio commerciale definitivo delle trasmissioni in digitale per anche la radio. Grazie di essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie a voi. Bene, grazie a Sergio Natucci che è stato con noi. Questa settimana, come avete sentito, abbiamo dedicato la prima parte, l'apertura del nostro programma, una volta tanto, alla radio. Oggi è possibile ascoltare la radio in versione digitale via web, anche attraverso il podcast, che è una nuova modalità di fare radio. Sicuramente in futuro sarà sempre più diffuso. Probabilmente c'è chi dice che la radio del futuro sarà on demand, quindi uno scaricherà solo i programmi ai quali è interessato, ma presto, come avete sentito, arriveranno anche le trasmissioni in digitale, che si possono ascoltare con una piccola radiolina, magari con le cuffiette mentre si passeggio, oppure in automobile e naturalmente anche in casa. In questa puntata di 2024 vogliamo parlare di Linux, un sistema operativo noto, famoso, sviluppato, pensate, da uno studente, un allora studente finlandese, Linus Torvalds. Dal 1991 poi il sistema è stato poi sviluppato anche da molti altri ricercatori, studiosi, programmatori, aziende. Ne parliamo anche perché oggi in Italia si celebra il Linux Day. Allora saluto Giorgio Panzeri, che è direttore di PC Professionale. Giorgio, bentornato a 2024. Grazie, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Linux è un sistema operativo, di sistemi operativi ne esistono vari, direi tre forse sono i più noti. Uno è diffusissimo, forse ha quasi il 90% del mercato, poi ci sono altri sistemi operativi che comunque sono assolutamente interessanti. Sì, diciamo, vabbè, Windows in tutte le sue versioni, quindi Windows XP, Windows Vista adesso e Windows Server dal punto di vista appunto dei sistemi per aziende, è il sistema operativo sicuramente più diffuso a livello mondiale. Però bisogna tenere presente che negli ultimi anni sta diventando sempre molto più importante appunto chiamato Linux. Linux è un sistema operativo che deriva da Unix, quindi il core di Linux è un dialetto appunto di Unix, che è un sistema operativo molto solido, decisamente molto potente. La caratteristica principale, la peculiarità appunto di Linux, è il fatto di essere open source. Quindi vuol dire che è da chi produce le varie distribuzioni sempre disponibile sia la versione pacchettizzata, quindi installabile direttamente sulla macchina del sistema operativo, quindi da utilizzare in modo diretto, sia la versione a codice, diciamo, quindi la possibilità di chiunque entrare nel codice e fare quelle modifiche che possono servire a livello in questo caso più aziendale che non... Diciamo chiunque, per modo di dire, poi sì, per esatto. Il consumatore finale insomma è un po' difficile. Il consumatore finale, diciamo, la caratteristica importante che ha, che è un sistema operativo comunque gratuito, sicuramente esatto. Gratuito. Oggi in Italia si celebra il Linux Day, trovate tutte le informazioni su www.linuxday.it, ci sono manifestazioni in oltre 120 città, in molte di queste manifestazioni ci sono anche gli install party, e quindi dei momenti in cui vengono aiutati gli utenti incuriositi e interessati a Linux ad installare il sistema operativo, anche se le cose sono diventate molto molto facili. È con noi Giorgio Panzeri, direttore di PC Professionale. Dunque Giorgio, una cosa che va detta è che Linux si diffonde tramite distribuzioni, così vengono chiamati proprio i vari tipi di Linux che vengono diffusi via internet soprattutto. Quali sono i due tipi più famosi? Ci sono due nomi, insomma, ricordiamoli. Beh, i due più famosi sono sicuramente Ubuntu, che in questi ultimi anni è diventato forse il più diffuso a livello proprio di utenza finale come sistema operativo, sia per le caratteristiche di semplicità d'uso, sia per le caratteristiche soprattutto di semplicità di installazione delle applicazioni, perché dopo magari ne possiamo parlare, ma fino a qualche anno fa la diffusione appunto di Linux era un pochino contrastata dalla difficoltà proprio di installazione e di installazione soprattutto delle applicazioni. In questo caso invece Ubuntu ha fatto dei grossissimi passi in avanti, è diventato molto più semplice da installare, è diventato molto più semplice da gestire e soprattutto è diventato semplicissimo installare le applicazioni, molto più semplice anche rispetto a Windows. Apriamo una parentesi, poi la richiudiamo subito per citare un altro sistema operativo importante, che è quello di Apple. Sì, il macOS X, macOS 10 in realtà, perché la X sta a indicare proprio la versione. macOS X sta diventando molto diffuso a livello mondiale, ma purtroppo è molto legato alla diffusione delle macchine di Apple, proprio perché è indissolubilmente legato appunto al suo hardware. Non è possibile utilizzare il sistema operativo, ad esempio, su macchine Intel o AMD che non abbiano il chipset non abbiano delle caratteristiche di controllo che sono specifiche appunto dei computer. Sì, comunque diciamo che normalmente insomma il sistema operativo della Apple va su macchine Apple, punto. Esattamente. Vale il contrario, vero? Il contrario sì, nel senso che comunque se uno compra un Apple adesso è possibile comunque su quella macchina, visto che sono macchine che hanno processori Intel con chipset, le ultime hanno chipset Nvidia e così via, è possibile comunque utilizzare ad esempio per far girare Windows o per far girare Linux. Addirittura qualche anno fa, quando uscì Vista, una rivista americana fece un sondaggio e fece delle prove e scoprì che gli iMac, diciamo che non sono i portatili ma sono i desktop della mela morsicata, gli iMac erano la macchina migliore per far girare Vista. Incredibile. Senti, chiudiamo la parentesi e riapriamo il nostro capitolo dedicato a Linux per dire che stanno contribuendo alla crescita e alla diffusione di Linux. Adesso noi stiamo dicendo si stanno diffondendo, in realtà sia nel caso di Linux sia nel caso di Apple le cose sono molto lente, perché comunque Microsoft detiene una fetta di mercato molto molto importante, insomma, quindi le cose non si stanno muovendo molto molto velocemente, però stanno accadendo molte cose. Dicevo, sta contribuendo la diffusione dei netbook, che sono questi piccoli computer portatili che hanno spesso un sistema operativo Linux. Sì, esattamente. Bisogna anche tenere presente che questo mercato del netbook è esploso proprio in questo ultimo periodo. Tanto per dare qualche dato, Asus ha raddoppiato, Asus che è stata il pioniere, la prima ha raddoppiato il numero di notebook che ha venduto rispetto all'anno precedente, cioè quindi è tutto, diciamo così, tutto il venduto in più erano tutti netbook. Acer per la prima volta è diventata a livello EMEA, quindi a livello europeo, il numero uno per, come numero di computer venduti, grazie proprio anche in questo caso ai netbook che hanno contribuito notevolmente. HP, che prima era il numero uno, non ha in catalogo un netbook e quindi non è cresciuta così tanto proprio anche a livello di diffusione di questo tipo. Sì, ricordiamo che i netbook sono questi, sono piccoli computer portatili, molto leggeri, soprattutto molto economici, perché i prezzi di entrata sono 300 euro. Tra i 299, anzi 249 addirittura. Alcuni ai 399 per i modelli più importanti. Alcuni di questi hanno come sistema operativo Linux. Sì, molti hanno proprio sistema operativo Linux, soprattutto perché è, diciamo così, un Linux un pochino diverso rispetto a quello classico, perché in questo caso viene fatto in modo specifico per quel tipo di macchina, quindi è un po' più bloccato, diciamo, no? Ma è fatto in modo tale che chi lo utilizza ha tutto quello che gli serve per utilizzare il netbook in modo estremamente semplice e soprattutto ha un tempo di boot, cioè di partenza, nel momento in cui io accendo il computer, sono pronto per lavorare, rapidissimo, parliamo di qualcosa tipo dai 7 ai 10 secondi. Addirittura? Dai 7 ai 10 secondi, quindi in pratica il netbook con questo sistema operativo diventa una specie di palmarone, no? Sì. Che è subito pronto per essere utilizzato. Con Windows questa cosa, Microsoft, innanzitutto bisogna dire che Microsoft ha risposto a questa cosa reintroducendo Windows XP Home proprio solo ed esclusivamente per i netbook. Windows XP Home funziona rapidamente, però in questo caso parliamo di tempi che vanno dai 40 al 2 minuti, insomma, a secondo del tipo di macchina, a secondo della configurazione. Sì. Noi oggi stiamo parlando di un sistema operativo, ma in generale potremmo dire, Giorgio, che i sistemi operativi stanno diventando sempre più importanti, perché fino a qualche tempo fa i sistemi operativi erano relegati al mondo dei PC. Oggi si stanno creando e aprendo nuovi mercati, quello dei netbook, che è un mercato nuovo. Non sono PC, non sono palmari, non sono telefonini. Però se allarghiamo il discorso ai telefonini, vediamo che il sistema operativo e poi tutte le applicazioni che girano sui sistemi operativi diventano sempre più strategici. Potremmo usare questa parola. Decisamente strategici e importanti. Teniamo conto appunto che anche in questo caso Microsoft ha la sua zampona, anche in questo caso con appunto Windows Mobile che è arrivato adesso alla versione 6, Linux sta entrando con Android anche lui proprio direttamente in questo settore, cioè ci sono tutta una serie di movimenti che riguardano appunto i prodotti che vengono chiamati smartphone più che telefonino classico, un pochino stupido sotto un certo punto di vista, che sta movimentando molto il mercato. Senti, tornando a Linux, quali sono in estrema sintesi i vantaggi? Allora, il primo abbiamo detto è gratuito, non è da poco, anche se un consumatore potrebbe dire vabbè, io vado in negozio oppure vado su internet, compro un computer, c'è già il sistema operativo, che cosa mi interessa se poi Linux è gratuito? Però diciamo sulla bilancia vale anche questo come vantaggio. Sì. Beh, il vantaggio principale non è tanto per chi compra un computer nuovo. Chi compra un computer nuovo comunque ha già appunto un sistema operativo a bordo. Teoricamente è possibile anche richiedere il rimborso del sistema operativo, però è abbastanza complicato, complesso. Poi soprattutto c'è anche da dire che chi compra un computer adesso ha un computer ideale nel senso di configurazione per far girare il sistema operativo che c'è a bordo. Quindi se c'è Vista, visto che ormai siamo quasi tutti Vista, la configurazione minima è fatta in modo da poter gestire in modo complessivo appunto il sistema operativo che c'è su. Il discorso diverso è invece per chi ha una macchina già da un po' di tempo. Allora, il passaggio dal sistema operativo che aveva su quella macchina che ho comprato, magari ancora un Windows 98 piuttosto che un Windows XP, a un Windows Vista, è impossibile per varie cose. Primo per la configurazione, magari non abbastanza memoria, non abbastanza disco e così via. E poi appunto non è una macchina tale da poter far girare appunto Windows Vista. Allora, piuttosto che prendere e buttare via una macchina di questo tipo, uno può installare il sistema operativo gratuito, che in questo caso è Linux, ed essere sicuri che il sistema operativo è sempre supportato. Perché il discorso cioè se io su un Windows 98 non è che la macchina non mi va più con Windows 98, però il problema è che non ho più i service pack di aggiornamenti, eccetera. Invece in questo caso esiste insomma un supporto, diciamo così. Giorgio, adesso ci fermiamo per qualche minuto, questo è 2024, ho ancora un paio di domande, capire se passando a Linux non si rischi poi di infilarsi in un vicolo cieco, e poi anche alcune cose sulla velocità, perché mi sembra di capire che in molti casi un PC sul quale gira Linux sia più prestante, più veloce. Seguite 2024 il sabato nel pomeriggio di Radio 24 oppure online sul nostro sito internet www.radio24.it. Trovate anche tutte le informazioni per scaricare il nostro programma e vi consiglio di utilizzare come modalità il podcast in maniera automatica oppure anche manualmente, però ogni settimana uno ha sul proprio computer il file MP3 della nostra trasmissione. Tutte le informazioni sono online oppure inviateci una email. Il nostro indirizzo è 2024, quindi 2024 e radio24.it. Io sono Enrico Paglierini, cercheremo di rispondervi anche rapidamente, a volte abbiamo qualche ritardo nelle risposte, ma insomma potete anche insistere senza nessun problema. A proposito di sistemi operativi, abbiamo parlato e parleremo ancora tra poco di Linux, poi avremo con noi anche l'amministratore delegato di Microsoft per parlare dell'evoluzione del mondo Microsoft, che è importante per il mondo dei PC, insomma 9 computer su 10 lavorano con questi sistemi. Ma dicevo poco fa, a proposito di sistemi operativi e dell'interesse che c'è nel mondo della telefonia, è di pochi giorni fa la notizia che la ARM, la società britannica che progetta microchip con architettura ARM utilizzata in molti telefonini, in molti smartphone, poi anche la Visa, la cinese Huawei che produce sia tecnologia per le reti cellulari, quindi antenne, infrastrutture di rete eccetera eccetera, ma anche molti altri prodotti per l'industria ICT, queste tre aziende sono interessate ad entrare nella Symbian Foundation per avere accesso gratuito al software. Symbian, ricordiamo che è il sistema operativo utilizzato da Nokia. Non ci sono solo queste tre aziende, perché nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, sono circa 50, una cinquantina le aziende che hanno dichiarato di avere in piano una partecipazione alla fondazione, compresi tutti i grandi produttori di telefonia mobile. Nokia ha da tempo in primavera annunciato che rileverà la maggioranza di Symbian per circa 410 milioni di dollari e renderà gratuite le royalty del software. C'è concorrenza, una grande forte concorrenza nel mondo della telefonia mobile, questa è sicuramente una mossa strategica per tenere lontani i nuovi entranti, chiamiamoli così, in modo particolare Apple che ha un proprio sistema operativo e Google con la Open Handset Alliance che ha un proprio sistema operativo chiamato Android, e poi come abbiamo detto c'è anche Microsoft con Windows Mobile, ma Windows Mobile costa ai produttori, quindi Microsoft anche recentemente ha dichiarato che non rilascerà gratuitamente le licenze per Windows Mobile. Dunque continuiamo ancora per pochi minuti a parlare di Linux con Giorgio Panzeri, direttore di PC Professionale. Giorgio, dicevamo prima che il computer con Linux in molti casi, soprattutto un vecchio computer che uno vuole rimettere a nuovo, è più veloce, stabile. Le caratteristiche importanti appunto di Linux sono il fatto che rispetto appunto a Windows, alle versioni, soprattutto alle versioni nuove di Windows, è molto più stabile, è molto veloce, nelle operazioni molto rapido. Senti, alcuni ascoltatori scrivendo si preoccupano e dicono: ma se io passo a Linux, magari addirittura anche con un computer nuovo, perché c'è qualche produttore che vende computer con sistema operativo Linux, giusto? Sì. Poi ci sono aziende che ci credono in modo particolare, tipo IBM, insomma, sappiamo che da tempo crede in modo particolare in Linux. Non è che poi ci si va ad infilare in un vicolo cieco e mancano i programmi, eccetera, eccetera. No. Allora, anche in questo caso bisogna tenere conto che bisogna vedere che cosa l'utente deve fare, nel senso che se l'utente deve lavorare con Photoshop è inutile che ci metta Linux, nel senso che Photoshop esiste solo ed esclusivamente per Photoshop. Cioè tu dici ci sono alcuni programmi che sono no, se devi usare solo ed esclusivamente quel tipo di programma, nel senso che ci sono le alternative, anche sotto Linux ci sono le alternative che funzionano benissimo. Per esempio, dal punto di vista del lavoro d'ufficio, OpenOffice adesso è arrivata alla versione 3 ed è un programma veramente notevole, anche lui gratuito e open source, che permette di sostituire la suite di Microsoft, Office di Microsoft. GIMP è un programma ad esempio estremamente potente che permette di sostituire appunto Photoshop o altre cose di questo genere. Ci sono alternative molto belle, molto potenti, praticamente su quasi tutto lo scibile e gli applicativi che ci sono per Windows. Se ben capisco e se faccio la somma di tutte le cose che ci siamo detti, se io avessi un piccolo ufficio potrei avere sul mio computer tutte le cose che servono per l'ufficio gratuitamente, senza pagare alcuna licenza. Sì. Diciamo, ma questa cosa oltretutto non solo con Linux, ma anche con Windows. Anche con Windows ormai ci sono gran parte degli applicativi che possono essere scaricati gratuitamente, sono open source, possono essere utilizzati senza problemi per lavorare. Questa è un po' una campagna che stiamo cercando di fare anche noi come rivista, per la moralizzazione sotto un certo punto di vista. È inutile utilizzare un programma craccato, copiato, cose di questo genere, giusto, quando ci sono delle alternative bellissime, gratuite. Quindi vale la pena piuttosto essere in regola utilizzando programmi gratuiti. Giusto, oppure uno paga la licenza. Se ha bisogno, paga la licenza e utilizza quella. Perché naturalmente i programmi a pagamento hanno delle caratteristiche in alcuni casi uniche, quindi è giusto poi insomma anche riconoscerle. Bene, grazie a Giorgio Panzeri, direttore di PC Professionale. Giorgio, buon lavoro e a presto. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Siete all'ascolto di 2024, adesso abbiamo il piacere di avere nei nostri studi l'amministratore delegato di Microsoft Italia, per la prima volta ai microfoni di Radio 24, anche perché da pochi mesi è entrato nel suo nuovo ufficio, Pietro Scott Iovane. Benvenuto a 2024. Grazie, buonasera a tutti. Partiamo da uno dei vostri prodotti storici, uno dei cavalli di battaglia di Microsoft, sul quale tra l'altro ponete molta attenzione perché gran parte del ricavo arriva da Office. Oggi Office viene attaccato sia da un mondo che si sta trasformando sempre più online, anche se qui le cose sono molto lente a succedere, ma anche dal mondo open source. Quasi quasi addirittura arriva un po' di concorrenza anche dalle vecchie versioni di Office. Bene, Office è alla sua 12ª edizione, quella che è in questo momento nel mercato, che si chiama Office System 2007, e rappresenta, se vogliamo, l'evoluzione nel tempo di tutta una serie di esperienze che noi abbiamo acquisito lavorando con gli utenti e cercando anche di accompagnarli nel grado di informatizzazione che nel frattempo ciascuno di noi ha vissuto. Rispetto a 10 anni fa abbiamo una attesa come utente dell'utilizzo del sistema del computer, ma forse anche del telefonino in una certa forma, e quindi se vogliamo Office oggi rappresenta questo. Quando guardo la versione futura di Office, quella che rilasceremo fra oltre un anno, in realtà incorporerà tutta una serie di aspetti che l'utente e l'azienda, ma anche l'utente consumer, quindi diciamo la persona che usa Office a casa, ricerca e che di cui ha bisogno, e che cavalca tutta una serie di evoluzioni tecnologiche che nel frattempo sono avvenute. Intanto che Office sia uno strumento di produttività che possa andare significativamente oltre il PC, che possa apparire sul telefonino, e che quindi un documento che oggi è sul PC possa essere facilmente leggibile su un telefonino, o che si possa operare su un documento di Office ma attraverso l'interfaccia per esempio di Word, in un'ipotesi in cui uno stesse scrivendo una lettera, anche attraverso per esempio la barra di Excel, la barra di Internet Explorer, quindi all'interno di una finestra del web. Bene, questa è l'evoluzione verso la quale si sta andando. La concorrenza segna alcuni avanzamenti su alcuni fronti, ma complessivamente lei consideri che la Microsoft investe circa 8 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo ogni anno, e questo lo fa per cercare di ottimizzare sempre più i propri prodotti e le proprie soluzioni. Quindi la concorrenza ci tiene certamente attenti e rispettosi, ma quello che noi stiamo sviluppando attraverso grandi impegni sia sulla usabilità sia sulla modalità con cui in maniera sicura questi documenti vengono usati in una struttura aziendale dove la collaborazione sta diventando sempre più digitalizzata, ci rende assolutamente all'avanguardia. ...2024. con noi oggi l'amministratore delegato di Microsoft Italia, Pietro Scott Iovane. Abbiamo parlato poco fa di Office dell'evoluzione, e a proposito di evoluzione, visto che si parla molto di servizi online, è immaginabile vedere nel giro di 1, 2, 3 anni un Office, un servizio Office online? Solo online? Guardi, tutta la strategia che la Microsoft sta implementando, noi fra un paio di settimane, peraltro nella una specifica conferenza per gli sviluppatori, diciamo, spiegheremo ancora meglio, il nostro vertice in America spiegherà ancora meglio al mondo degli sviluppatori, rappresenteremo comunque meglio qual è la nostra strategia che permette alla parte che di software che è presente di PC, di integrarsi con quello che è la cloud, quindi internet in buona sostanza. È come se noi stessimo per annunciare il Windows Cloud, quindi il Windows per internet. In realtà avrà un brand, ma non sarà percepito come puramente un sistema operativo, ma sarà quella capacità di integrare tutta una serie di servizi attraverso la rete all'interno di Office, e così come di altri applicativi che noi abbiamo sul mercato. Quindi nel tempo lei avrà la possibilità sì di accedere ad Office attraverso puramente la rete, quindi completare la propria produttività magari in movimento, magari da un caffè, internet caffè, oppure attraverso uno strumento che non è un PC, attraverso un dispositivo mobile come un telefonino. Resta inalterata la valenza e l'importanza però di avere la sua suite, il suo sistema applicativo, quindi Office su una macchina, perché come un PC, perché oggi i PC hanno una capacità computazionale che è strepitosa, e che se lei guarda la roadmap dei prodotti sarà sempre così, cioè la capacità di un PC di far girare tutte le informazioni necessarie sarà qualcosa a cui noi non potremo mai rinunciare. La rete ci permetterà invece di avere un insieme di queste caratteristiche a portata di mano in maniera più semplice. Senta, se le dico, come alcuni, molti sostengono, che Vista, sul quale voi avete investito molto tempo e molto denaro, molti uomini in ricerca, non è stato un grande successo, lei cosa risponde? Che abbiamo commesso un grande errore nel permettere alla percezione che lei menzionava di essere percepita come qualcosa più di una percezione. Guardi, le racconto qual è la volontà che Microsoft ha nel lanciare una più grande campagna pubblicitaria che è partita da qualche settimana nel mondo consumer, che parte dal raccontare che Windows rappresenta una comunità di 1 miliardo di persone nel mondo, che fanno i più disparati lavori e che attraverso il proprio computer, quindi attraverso il sistema operativo e quello che noi abbiamo sviluppato nel tempo, possano raggiungere i propri obiettivi, oppure tenere un budget familiare, o permettere a un nonno di parlare con un nipote che è più informatizzato, il nonno rincorre questo grado di informatizzazione, tutto allo stesso tempo e con estrema semplicità. E devo ammettere che peraltro questo motivo anche di un po' di riscossa, perché noi siamo stati meno visibili di quello che forse ci immaginavamo, ma stiamo diventando sempre più indispensabili forse, e quindi questo raccontare quanto un sistema operativo sia indispensabile è importante. Vista è un prodotto formidabile quando uno lo utilizza, che però non è stato comunicato nella maniera in cui percepirebbe lei l'entusiasmo in una persona quando invece lo utilizza dopo un po'. Se lei dovesse intervistare una persona dopo aver usato Vista per qualche settimana, le racconterebbe che se dovesse tornare indietro, scambiare il fustino, farebbe fatica, sì, perché alcuni degli aspetti di Vista sono fondamentali. Le dico solo una cosa: un tema di sicurezza e un tema di integrazione con la rete. Però ci sono molte aziende che hanno scelto di rimanere con XP. Questo succede, intanto che è un prodotto favoloso, che ha oggi 8 anni e che tra l'altro, avendo 8 anni, ha un'ottimizzazione da un punto di vista di funzionamento strepitoso, ma XP raggiunge una serie di livelli di utilizzo che sono perfetti guardando al mondo in cui abbiamo vissuto. Quando guardo all'integrazione di un PC con la rete e quando guardo al modo con cui i consumatori oggi utilizzano la rete, non c'è dubbio che tu abbia bisogno di un sistema operativo che veda la rete come un elemento di integrazione. Vista rappresenta questo. E penso anche che le aziende tendenzialmente abbiano sempre un approccio di osservazione di un rilascio di un sistema operativo che è importantissimo per la propria forza lavoro, e quindi attende l'analisi degli analisti, che inizialmente hanno detto aspettare, e oggi iniziano a cambiare idea dicendo attenzione, forse dopo 1 anno e mezzo è arrivato il momento invece di fare quello che viene chiamato deployment, cioè di installazione all'interno dei contratti esistenti. Vista va provato e noi siamo sereni quando guardiamo i numeri all'interno di come vanno le vendite di Vista. La percezione dobbiamo ottimizzarla. Senta, se le dico che sul web, guardando il web come un nuovo terreno di conquista, un nuovo terreno di business, ecco, su questo terreno voi siete in ritardo, è d'accordo? Come sempre bisogna guardare nel dettaglio e su alcune cose non siamo dove vorremmo essere. Ecco, mi basta per il momento questa risposta, perché poi vorrei andare oltre. Non ricapitoliamo quello che è successo quest'estate, però citiamo il nome Yahoo. Voi volevate acquisire Yahoo per, diciamo, accelerare questo cammino. Oggi avete deciso di andare da soli, mi sembra di capire. Corretto. Perfetto. Voi state aprendo tra l'altro centri di ricerca anche in Europa, per il momento non ancora in Italia, ma potrebbe essere un'opzione. E le logiche dei centri di ricerca che sono mirate a ottimizzare la nostra capacità dei nostri motori di ricerca ovviamente seguono la logica di lingue, quindi naturalmente italiano non è ancora la lingua più parlata al mondo, ma se lo fosse stato naturalmente saremmo partiti dall'Italia e ci arriveremo sicuramente. Questi centri di ricerca mirano a comprendere dinamiche in ogni paese su come vengono utilizzati gli strumenti di ricerca, come la lingua, che implicazioni ha la lingua specifica in ogni paese, quindi naturalmente l'Italia avrà il suo ruolo. Quindi live, voi continuate a puntare su live.com come motore di ricerca, come centro della strategia online? Guardi, del tutto, e peraltro stiamo vedendo un'adozione da parte anche di altri partner sulla rete che lo immettono all'interno del proprio network. Facebook più recentemente, cioè un sito di social networking che sta crescendo in termini di utenza in maniera strepitosa, ha adottato live come motore di ricerca, quindi mettendo all'interno dell'esperienza che si ha all'interno del social network appunto la piattaforma di search nostra. Se le dico però gli altri fenomeni in cui Live lavora, cioè nel mondo dell'instant messaging, noi siamo spesso in ogni paese il provider numero uno di instant messaging. In Italia abbiamo circa 14 milioni di utenti. Se penso al motore al portale, siamo il portale numero uno per contenuti in Italia. Se penso alla posta elettronica numero uno, sui blog altrettanto. Come le dicevo, dipende un po' da entrando un po' nel dettaglio come siamo. Quindi siamo in ritardo in alcune aree sul motore di ricerca, non siamo dove vorremmo essere, ma noi pensiamo che il mondo dei motori di ricerca abbia iniziato la propria storia da poco e abbia un lunghissimo futuro davanti a sé. L'evoluzione che il software può permettere ai motori di ricerca di avere è incredibile. Questa è la forza del software. Molto bene, io ringrazio Pietro Scotto Iovane per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto. Grazie a voi, buonasera. Ed è proprio così, ne abbiamo parlato anche recentemente a 2024, nel settore dei motori di ricerca succederanno moltissime cose nei prossimi anni ed è per questo che tutti, Microsoft compresa, sta investendo in questo segmento di mercato molto profittevole per gli anni futuri. 2024 si conclude tra poco, adesso nella nostra ultima parte, negli ultimi minuti, parliamo di notebook perché lunedì, assieme al Sole 24 Ore, esce Test 24, dedicata appunto ai notebook per scegliere il proprio prossimo computer portatile, una guida curata da Francesco Marino. Francesco, benvenuto 2024, ciao. Grazie. Tu ti sei occupato di addirittura 51 modelli, hai selezionato anche molte categorie, insomma un panorama molto complesso, ma non ci sono solo i computer, di cui parleremo tra poco, all'interno di questo test 24, insomma all'interno di questa guida ci sono molte altre cose, che cos'altro oltre ai computer? Sì, oltre ai 51 modelli che hai citato, cerchiamo di dare dei consigli pratici, utili, di immediato utilizzo, per esempio per la protezione dei dati, perché nei computer ormai il valore principale non è rappresentato dall'hardware ma in quello che contengono, che siano dati aziendali o ricordi, le fotografie, i filmati della famiglia. Quindi diamo questi consigli, puntiamo anche l'attenzione sull'assistenza tecnica, che è un tema molto importante, perché quando un computer si rompe, ormai sono così complessi che non si sa più dove mettere le mani, è importante quindi al momento dell'acquisto capire quali sono i servizi e l'assistenza che viene garantita. Diamo anche qualche informazione su dove acquistarli al miglior prezzo, quindi alcuni siti internet a cui potersi rivolgere con fiducia. Diamo anche uno sguardo a quelle che sono le novità in uscita per il Natale, che ancora non sono sugli scaffali, oltre, come hai detto tu, a suddividere i notebook non soltanto in termini di prestazioni ma anche per tipologia di utilizzo, che a mio avviso è la cosa più importante. Ecco, allora a proposito delle categorie, quali sono, anche per capire a quali stili di vita corrispondono? Guarda, noi abbiamo scelto queste sei categorie che si potessero adattare un po' ai principali modelli di utilizzo e quindi di profili di utilizzatori che abbiamo visto si stanno diffondendo. Quindi innanzitutto i notebook di base, quelli robusti, con una buona capacità di calcolo ma dal costo ancora contenuto, magari senza grandi capacità multimediale. i notebook per l'ufficio e quindi devono avere magari una capacità di calcolo superiore, magari uno schermo un po' più grande, alcune magari funzionalità anche grafiche, i notebook per la casa dell'intrattenimento che poi sono i notebook con capacità multimediali elevate, grande potenza di calcolo grafica, capace di visualizzare film in alta definizione o addirittura videogiochi. Ci sono poi, diciamo, i notebook per chi ama mostrarli, quindi i notebook di design magari realizzati in materiali ricercati, non so, in legno, in bambù, alcuni addirittura profumati. Ci sono poi i notebook per chi viaggia tanto, per chi lo porta sempre con sé, magari nella valigia o nella borsetta, quindi ultra portati dallo schermo piccolo e dalla grande autonomia, e infine quelli che possiamo chiamare i notebook low cost, i netbook, che quindi hanno potenze di calcolo limitate, hanno un piccolo formato ma puntano tutto su un prezzo assolutamente competitivo perché costano meno di un telefonino, intorno ai 300 euro. E allora, per sapere tutto sul mondo dei notebook, vi rimandiamo a lunedì con Il Sole 24 Ore, c'è Test 24, questa guida curata da Francesco Marino, che ringraziamo per essere stato con noi. È tutto per questa puntata di 2024, il nostro indirizzo è 2024@radio24.it, il nostro programma è disponibile anche online via podcast, tutte le informazioni su www.radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, appuntamento alla prossima settimana, sempre il sabato, nel pomeriggio di Radio 24. Buon ascolto. You are disconnected. Adesso per noi c'è una breve pausa, ci risentiamo tra circa un minuto. Ma ne parliamo tra poco.